Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti e buon Natale, anche se è quasi finito. Diciamo lo stesso con tutto il cuore, buon Natale a tutti. Buon Natale Antonio. Buon Natale Gesi e a tutti i nostri ascoltatrici, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Naturalmente che invitiamo con un cordiale benvenuto su Blu Radio Veneto con la nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70, 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera c'è la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Benissimo. Stasera abbiamo un ospite che penso che i nostri ascoltatori ricorderanno, che è la signora poetessa, diciamo, Renata Alberti. Buonasera Renata. Buonasera Renata. Buonasera Gesi, buonasera Antonio, buonasera Daddy e a tutti i radioascoltatori. Benvenuta. E buon Natale a tutti. Benvenuta. Hai passato bene il Natale? Bene? Tutto ok? E con serenità. Benissimo. Come avrei voluto farlo. Benissimo. Allora, cominciamo con il primo brano, Antonio. Il primo brano è Let It Snow di Dean Martin. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola alla nostra ospite. Grazie Jaisy. Oggi è Natale e io auguro veramente a tutti gli ascoltatori che l'abbiano vissuto con la serenità nel cuore. È solo questo che tutti noi chiediamo per questo Natale e per tutti i prossimi. E vorrei proprio dedicare i miei ultimi versi scritti qualche giorno fa, aspettando il Natale. Messaggio del presepe. Una vecchia greppia di legno ad accogliere la tua venuta. Paglia e lino per riscaldare il primo fiato. Un rude legno incrociato, spine e lino a raccogliere il tuo ultimo afflato. Nel presepe il messaggio di rinnovato stupore, preludio di eterno dolore dell'elevato epilogo lasciato alla storia nel sacro lino che ha accolto e raccolto il martoriato corpo divino. È una poesia un po' insolita per il Natale, sì, ma credo appunto. Che questo Natale in molti lo vivano pensando di più alla divinità del momento che alle cose faziose. Beh, speriamo che sia così, anche perché il Natale deve essere vissuto intimamente, moralmente, religiosamente. Soprattutto religiosamente. Ecco, appunto, appunto. Leggi qualcosa? Sì, allora, io oggi, questa sera, ho portato, come tu mi hai chiesto, delle favole per bambini. Oh, che bello! Favole di Natale. Sì. E io le ho estrapolate dal libro edito ancora nel 2003, Nel giardino dei sogni e desideri, Farfalle e piccoli animali raccontano. Dì. Questo libro ha avuto un grande successo solo a livello di gratuità, perché ogni euro raccolto è stato donato ai bambini aiutati dai padri somaschi di Madonna Granda di Treviso. Ho capito. Sono i bambini raccolti dai tombini che sniffano colla, che sono abbandonati a se stessi, e i nostri padri somaschi stanno facendo un grande lavoro, non conosciuto purtroppo da tutti, e per portarli nel centro che è loro, tipo ospedale che hanno costruito a Targoviste in Romania, e che li aiutano in ogni bisogno e anche nello studio. Bene. E con questo libro io credo di non poterlo eguagliare in un futuro, perché ha dato tanto e tanto a questi bambini. Bene. La favola di oggi è La Margheritina Sola. Ti dirò che è una favola, però rispecchia una grande realtà, la realtà che vivevo io in quel momento. Benissimo. La Margheritina Sola. Nel giardino di una casa nacque una margheritina dentro una fessura di terra tra due sassi del Piave. Fece capolino in un frizzante mattino di primavera, guardandosi attorno spaventata. Era sola tra due sassi che le sembravano due macigni. Non riusciva a vedere niente attorno e così, triste e disperata, alzò la corolla verso l'alto e, meraviglia, vide un cielo azzurro che sembrava un mare e una luce forte che le scaldò il cuore. Era il sole che saliva alto nel cielo e così lei non ebbe più paura. Passarono i giorni, il suo gambo crebbe e la margheritina cominciò a guardarsi intorno. Più in là, sul prato verde, vide una macchia bianca. Erano le sue sorelle che chiacchieravano felici insieme. Le arrivavano le voci. Lei invece, non sapendo con chi parlare, si sentiva isolata. Provò più volte a chiamarle, ma i cinguettii degli uccellini coprivano la sua voce. C'erano passeri, tortore, merli, e che iniziavano a custodirsi i nidi sulle palme. Le rondini, arrivate da poco, garrivano vedendo i loro vecchi nidi ancora lì, ancorati solidamente ai muri. Dopo essere emigrate in terra straniera, si ritrovavano a casa tra vecchi amici, felici perché consapevoli che la padrona di casa non avrebbe disturbato le loro covate. In mezzo a tanto frastuono, la margheritina si sentiva spaventata. Ma un'improvvisa folata di vento la fece piegare di colpo su se stessa e si trovò riflessa nell'acqua del laghetto. Guardò con attenzione e vide tanti piccoli pesci rossi e neri che rincorrevano le loro mamme. Si chinò ancora un po' fino a toccare l'acqua con i suoi petali. Ogni giorno c'era una nuova sorpresa. Tina, la tartaruga, svegliatasi dal lungo letargo, cominciò a stiracchiarsi sopra i sassi per riscaldarsi ai primi raggi del sole. Quando si accorse della margherita, cominciò a parlare insieme come una vecchia amica. C'era poi la Fayette, il cane che rincorreva la tartaruga in fuga e con fermezza la sospingeva con il muso per riaccompagnarla al laghetto. Anche Lafayette si accorse della Margheritina e faceva molta attenzione a non calpestarla. Era così bello vedere l'accordo che regnava nel giardino tra fiori e animali che la Margheritina, anche se sola, si sentiva ora al sicuro. Arrivò l'estate e le sue sorelle morirono falciate da rasaerba del padrone. Era finita proprio male per le Margherite chiacchierone. Arrivò l'autunno e le rondini partirono a malincuore, ma altri ospiti arrivarono nel giardino. Erano i pettirossi, le ballerine bianche e perfino uno scricciolo. Qui avrebbero trovato cibo e un bel tepore paragonato al manto di fresca neve lasciato in montagna. Sul bordo del portico trovavano sempre bricioli di pane, un vero banchetto che la padrona di casa non dimenticava mai di preparare. La Margheritina guardava curiosa e divertita i pettirossi fare il bagno nel laghetto, scrollare le piume e pettinarsi, maschio e femmina, come due innamorati, finché non erano completamente asciutti. Ogni giorno la coppia dal petto rosso si fermava sulla gabbia di Pedro il pappagallo a fare un po' di compagnia. Gli raccontavano le favole dei boschi e lui ascoltava rapito. Timido di natura, si sentiva a suo agio con i pettirossi. In cambio offriva loro un po' di semi ed era subito festa. In breve arrivò dicembre. Il laghetto ghiacciò e la Margheritina infredolita cercò riparo tra i due sassi. Era rimasta l'unica superstite della sua specie. Una mattina, dal cancello aperto, entrò Lilli, il cane dei vicini. Anch'esso si sentiva spesso solo e quando riusciva a scappare cercava la compagnia di Lafayette. Povero Lilli, era stato maltrattato e abbandonato in un canile e ci erano voluti molti mesi per fargli capire che gli uomini non erano tutti cattivi e per lasciarsi ancora accarezzare e coccolare. Era la vigilia di Natale. Si respirava un'aria diversa dal solito, un'aria densa d'attesa. Il mistero di Gesù che nasceva ancora una volta per salvarci. Entrato con una corsa sfrenata, Lilli scivolò sul ghiaccio del laghetto, lo ruppe e cadde sopra la Margheritina spezzandola. La padrona di casa, richiamata dal frastuono, accarezzò Lilli e, attratta da un lamento, si accorse della Margherita che piangeva sconsolata. «Cosa posso fare?» pensò tra sé. «Ridotta così, appassirà subito». Le dispiaceva buttarla perché l'aveva salutata ogni giorno per tanto tempo e ormai la considerava parte della famiglia. La raccolse e un'idea improvvisa le balenò in mente. La infilò nel muschio del presepe, vicino alla culla vuota di Gesù Bambino. Le ali spiegate di un angelo la consolarono e si ambientò subito. La Margheritina passò tutto il giorno a guardarsi intorno. Non capiva bene dove si trovasse, ma non si sentiva sola come il solito. Il calore della mangiatoia la avvolgeva in un tenero abbraccio. Un fremito d'amore la sconvolgeva. Non aveva mai provato emozioni così forti nel giardino. Qui invece, con le luci, gli angeli, i pastori, le pecore, c'era veramente un'atmosfera magica. Poi, stanca, si addormentò. La svegliarono il suono delle campane e quello dei canti. Era mezzanotte. Si rizzò a fatica e un grido di meraviglia le si strozzò in gola. Vicino a lei, nella culla, c'era un bambino così bello che la incantò. si chinò sul pezzo di gambo rimasto per poterlo vedere meglio. Un nodo sembrava soffocarla. Era felice, ma provava pena nel vedere quel bambino coperto solo da un po' di paglia. E pensando al freddo sofferto in giardino, si piegò per riscaldarlo con la sua corolla. Così la trovarono i padroni di ricasa, di ritorno dalla Santa Messa. La sollevarono con delicatezza, accorgendosi, stupiti, che Gesù bambino era coperto da un manto d'oro. Con la luce della stella cometa, i pistilli che la Margheritina aveva lasciato cadere con le sue lacrime di gioia avevano creato una preziosa coperta al piccolo Gesù. La Margheritina sola, una piccola Margherita, se ne stava sola e spaurita tra due grossi sassi. Spaventata, li osservava mormorando: sembrano dei massi. Aiuto, aiuto, gridava disperata. Ma nessuno l'ascoltava nel giardino spogliato. Ormai non le restava che piangere con fare sconsolato. Un grosso cane nero, entrato di soppiato, scivolò sul laghetto ghiacciato, spezzandole il gambo intero. La padrona di casa, attirata dal rumore, raccolta la Margheritina con amore, la depose accanto alla culla di Gesù, nel presepe, vicino alla Madonna e a San Giuseppe. Splendido. Emozionante. Bella, bella, sì. E bella. Allora passiamo al prossimo brano musicale, che è Last Christmas degli Wham. Give it away this year to set me free. Ed eccoci di nuovo in studio e lasciamo la parola naturalmente alla nostra ospite. Ancora una poesia sul Natale e alterniamo così le dediche ai bambini e agli adulti che ci ascoltano. Presepe, tenerezza di Dio. Si ferma il tempo davanti a un presepe e nel silenzioso incontro con il mistero ogni uomo ritorna bambino. Il silenzio è vibrazione, il seme divino si fa luce, musica, pienezza, tenerezza di Dio davanti a un presepe. Bello, bello, bello. Ed ora volevo parlare della prossima favola, sì? La leggenda dell'albero di Natale, sì? E spiegare ai radioascoltatori che quattro favole di questo mio libro sono state riprese dall'associazione Robi, Ricominciare oltre le barriere, e ne è nato un lavoro stupendo per i bambini ipovedenti e non vedenti di tutta la provincia di Treviso. Sono quattro volumi scritti normalmente e in braille e illustrati tutti manualmente dai bambini focolarini, dei loro genitori, del Duomo di Treviso, della parrocchia del Duomo di Treviso. Bello, bello, bello. È stata una proposta che mi hanno fatto ancora qualche anno fa, a cui ho aderito con grande gioia, perché ogni cosa che va a scopo benefico, certo, per me è... Lo so. È il mio vivere quotidiano. Lo so. Ecco, perciò io ho portato oggi uno di questi libri e lascio l'introduzione a Jesi. A Roberta, l'ispiratrice di questo libro è Roberta, una giovane non vedente morta nel marzo 2009, fonte della nascita della nostra associazione Robi Onlus. Sono racconti che parlano il linguaggio della solidarietà, dell'aggregazione, dell'inclusione, della condivisione al coinvolgimento per valorizzare la diversità. Non ultimo, certamente, il favorire per i bambini non vedenti l'avvicinamento alla lettura, far loro vivere e rivivere il piacere dell'ascolto e successivamente della parola, del narrare, della relazione tra persone. Chi vive chiuso nelle serre dell'egoismo e dell'indifferenza e non sa guardare oltre, si perde i piccoli miracoli quotidiani. Ogni giorno chiedo al cielo di trovare la giusta chiave per aprire nuove emozioni. Piccoli cari amici, il vostro accogliere questo cofanetto sarà per me fonte di rinnovato stupore. Renata Alberti. Ed ecco la favola ripresa dal primo libro, La leggenda dell'albero di Natale. La neve copriva come un morbido piumino la cima del monte ai confini con l'Austria e giù, fino alla vallata, riluceva un bianco bagliore. A metà pendio, il tetto di una casetta di legno sembrava una tavoletta di cioccolato lasciata cadere dal cielo sopra un letto di panna montata. Intorno c'erano dei pini che sembravano proteggerla in un caldo abbraccio. Davanti, la porta, un abete solitario dava il benvenuto. Nella piccola casa viveva con i nonni un bambino di nome Eric. I suoi genitori avevano lasciato i monti in cerca di lavoro ed egli era sempre triste. Pensava spesso alla sua mamma e al suo papà che aspettava ansiosamente per Natale e, nell'attesa, dava spazio all'immaginazione sul loro modo di vivere attraverso il racconto che gli facevano i nonni. Erano così poveri da dover lavorare giorno e notte per farlo crescere, ma erano tanto buoni che non si lamentavano mai. Ogni sera pregavano tutti insieme il buon Dio perché non mancasse un piatto caldo per il giorno dopo, da dividere con qualche viandante che passava di lì. C'era tanto calore umano in quella casa, pur in mezzo a tanta miseria, perché regnavano pace e serenità. Il Santo Natale era alle porte. Eric aveva ormai 5 anni e lo aspettava con trepidazione. Non sapeva ancora, i nonni non avevano trovato il coraggio di dirglielo, che i suoi genitori non sarebbero tornati per trascorrere la festa, perché non erano riusciti a racimolare i soldi per il lungo viaggio. Poveri nonni, volevano a tutti i costi rallegrare Eric, ma non avevano granché in casa. Il bisogno, però, a volte aguzza l'ingegno, e con rapidità decisero di tagliare dei rami di pino per appenderli alle finestre. Il nonno, con infinita pazienza, cominciò a costruire un piccolo presepe di legno. La nonna, abituata ad inventare lavori sempre diversi, prese una noce, la svuotò con cura e la trasformò in una culla. A mezzanotte vi avrebbe deposto un piccolissimo Gesù bambino creato con la pasta di sale. Poi ebbe un'idea geniale. Prese da un cesto nella dispensa le mele rosse che teneva in serbo per l'inverno e le lucidò con un panno fino a farle risplendere. Voleva appenderle all'abete davanti a casa, ma si accorse di non avere nastri né cordoni. Corrucciò la fronte, ma solo per un momento. Poi corse in stalla e prese della paglia che intrecciò pazientemente per renderla più resistente, creando dei lucenti nastri per le mele. Era proprio contenta. Eric intanto parlava col suo angelo custode, il suo grande amico al quale confidava pensieri e desideri, e di confidenza in confidenza finì con l'addormentarsi davanti al camino, scaldato dal tepore e dall'atmosfera d'attesa, sognando il ritorno dei genitori. L'angelo ascoltava assorto parole e sogni mentre osservava tutto quel lavorio e, impietositosi, decise di intervenire. Alzò la testa verso il cielo, dove migliaia di stelle brillavano. Le chiamò per nome: Astrid, Gladys, Oasis, Iris, Asaf, Sirio, Semi, e li invitò a scendere sulla terra. Accolsero con gioia l'invito e una alla volta si posarono sopra le mele appese all'abete, illuminando i nastri di paglia fino a farli sembrare un intreccio di fili d'oro. Da lontano giungevano i rintocchi delle campane in festa per la nascita del Creatore. I nonni svegliarono Eric e aprirono la porta per mostrargli l'albero, ma rimasero tutti e tre senza parole. L'abete brillava in ogni suo ramo. In quell'istante, l'ultima stella a essere chiamata, la più lontana, di nome Cometa, si posò sulla punta del pino, lasciando dietro di sé una scia luminosa e rischiarando tutto il pendio del monte. Era nato così l'albero di Natale, per mano celeste e grazie all'amore di 2 nonni. Nessun altro mai fu più bello di quello. Che bello, sono tutte cose commoventi, eh? Ok, passiamo al prossimo brano musicale dopo questa emozione naturalmente palpabile, ed è The White World of Winter di Bing Crosby. In this wonderful white world of winter, darling, we'll have a wonderful time. First we'll ride side by side through the hinter and rondelay to the sleigh bells' merry chime. Then we'll ski fancy free down old Baldy and take those chances all silly people do. If there's ever a moment you are freezing, just a little squeezing, just a little squeezing could be mighty pleasing. Could be mighty pleasing. In this wonderful wide world of winter, I'm falling head over heels over you. In this wonderful white world of winter, darling, we'll have a wonderful time. If we prayed it would snow all this winter, I ask, is that a terrible, horrible crime? I can't wait till we skate on Lake Happy and sup a hot buttered cup in the afterglow. If there's ever a moment you're not laughing, maybe a toboggan, hoop, don't bump your little noggin. Bump your little noggin. In this wonderful wide world of winter, I'm thinking you are the sweetest one I know. Here we go through the snow, in the snow. Ed eccoci di nuovo in studio, e naturalmente come da tradizione abbiamo quel nostro siparietto che questa volta è singolo. Lo farò io soltanto per, diciamo, citare una breve poesia che a molti potrà sembrare avulsa dall'atmosfera natalizia. In realtà io credo che sia questa l'occasione buona, proprio ottima per citarla. Prima vennero. È in origine un sermone del pastore Martin Niemöller sull'inattività degli intellettuali tedeschi in seguito all'ascesa al potere dei nazisti e delle purghe dei loro obiettivi, scelti gruppo dopo gruppo. La poesia è un modello popolare per descrivere i pericoli dell'apatia politica e sociale e di come essa alle volte inizi con un odio teso a impaurire quegli obiettivi e possa facilmente andare fuori controllo. La versione più famosa è quella del drammaturgo tedesco Bertolt Brecht. Ai gruppi citati se ne possono aggiungere naturalmente molti altri. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Molto bella. E ridiamo, sì. E ridiamo la parola alla nostra ospite. Grazie Antonio. È con emozione che ho ascoltato questa poesia perché più volte l'ho letta ai bambini a scuola come tema di Natale, proprio per coinvolgerli in Natali diversi. Bravo Antonio. I miei sono semplici versi ancora davanti al presepe. Stupore, incanto, dubbio, rimpianto. Sostare davanti alla cristianità del presepe è rivivere un lungo viaggio ritroso tra presente e passato. È l'incantesimo del Natale che cattura l'anima, la scalda e invola in desiderio di cielo. Bella. Hai qualche altra favola? Sì, volevo giusto per concludere il discorso, sì, dell'associazione Robi. È stato fatto 4 anni fa questo cofanetto con 4 mie storie illustrate dai bambini, come ho già detto, sì, e accompagnate da un CD con la musica di Pasutte Bignami e con la mia voce a raccontarle. Credo che molti bambini abbiano vissuto un Natale, quel Natale diverso quando hanno ricevuto il cofanetto. Ah, perché c'era anche il disco dentro. Sì, era un lavoro molto completo, sì, di cui, sì, sì, l'associazione veramente è stata magnifica nell'idearlo e proporlo. Quindi, e donarlo ai bambini. Bene. Ecco, io avrei un'altra storia. Sì. Maria Rosa, la libellula pensierosa. È un po' la ricerca della felicità che in questo periodo mi sembra che... Che non ci sia. Veramente, o tutti la cercano ma non, la, ma non, la non sanno dove cercarla veramente. Sì. Era bella Maria Rosa, con il suo trasparente vestito di voile, dipinto di delicate sfumature che sembravano rubate alla madreperla. Ma la bellezza non bastava a renderla felice, sempre intenta com'era alla ricerca di risposte ai molti dubbi e interrogativi della vita. Ogni giorno, uscita dall'università dove frequentava la facoltà di filosofia, spendeva il proprio tempo a volare. Svolazzava fino a rimanere senza fiato, con la speranza di alleggerire la testa prima di andare completamente nel pallone. Si posava sopra un ramo illuminato dal sole per rigenerarsi e in quel rifugio sicuro si lasciava avvolgere dall'intenso profumo dell'orto botanico. Riposata a dovere, scendeva da ramo e, attirata dall'esplosione di colori dei peperoncini, si lasciava solletticare dal respiro pungente. Finalmente, sgombrata la mente, si librava in un volo tranquillo. Salutava le farfalle che incontrava con un piccolo cenno del capo e loro ricambiavano, senza però riuscire a capire il perché della sua aria pensierosa. Il clima era ideale per svolazzare. I fiori gareggiavano per ricevere il premio in palio del concorso Il fiore più bello. Cosa si poteva chiedere di più alla vita? Le farfalle si sentivano libere di volare e felici di vivere, anche se i loro giorni erano contati. Maria Rosa ascoltava con attenzione i mormorii delle piante su cui si posava, analizzando persino ogni mutamento di tono. Poi, in disparte, rifletteva e rimuginava. Ma alla fine, le varie teorie proposte dai noti filosofi ingarbugliavano ancora di più il risultato di valutazione. La sera si coricava nel suo rifugio con il tetto di stelle ai margini del bosco e riavvolgeva la matassa dei pensieri dipanati durante la giornata. Un giorno di luglio, finiti gli esami, Maria Rosa, libera da impegni, calzate un paio di leggere scarpette fosforescenti, riempì uno zainetto. Mise dentro una tisana alla valeriana per conciliare il sonno, dei succhi di frutta ai mirtilli, un sacchettino pieno di foglie di citronella per mettere in fuga le zanzare e un libro appena acquistato sul tema della ricerca della felicità da leggere nei momenti di relax, e partì in esplorazione del campo vicino all'università che non aveva ancora visitato. In quell'occasione fece conoscenza con il vecchio calabrone Rosario, che sedutosi sullo stesso papavero le raccontava i suoi ricordi incentrati su centinaia di fiori esotici visitati. Sopra una spiga di grano maturo, una coccinella, presentatasi come porta fortuna, le si era talmente appiccicata addosso da non volerla più lasciare. Maria Rosa, che non credeva alla fortuna, abbandonò a fatica il campo rosso e giallo. Vagò cercando riposo in mezzo a un verde prato di trifoglio. Scelse con attenzione un fiore e, chiedendo cortesemente il permesso, vi si accomodò. Sperava di poter schiacciare un sonnellino, ma la speranza fu subito delusa. Un quadrifoglio, superbo e vanesio, per farsi notare dalla libellula, ruppe il silenzio, cantando con orgoglio questo inutile ritornello. Da una pioggia di sepali solo io sono nato con quattro petali. Ma una mano impietosa spezzò il gambo e lo portò via. Il quadrifoglio si trovò solo e spaesato, essiccato e pressato tra due pagine di un libro di filosofia. E l'orgoglio, ahimè, schiacciato dalle parole di un foglio. Maria Rosa avvilita, da tanta prepotenza colpita, abbandonata l'aria pensierosa, trovò immediata la risposta a ogni cosa. Dosare l'orgoglio e il potere con l'umiltà e il sapere, gioia e amore con sofferenza e dolore, ingiusta alchimia, quella era la vera filosofia. Bella. Una lezione di sì, vita. Sì, di vita proprio. Sì, sì. Bella. Data da una libellula. Naturalmente, anche gli animali possono insegnare molto, beh, certo. Devo dire. Allora possiamo passare a un ulteriore brano musicale che è Cold December Night di Michael Bublé. Stockings are hung with care. The children sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake, 'cause I'm older now, but not done hoping. The twinkling of the lights, the Santa carols fill the household. Old Saint Nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. I asked for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that I will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. Kiss me on this cold December night. A cheer that smells of pine, a house that's filled with joy and laughter. The mistletoe says stand in line. Loneliness is what I've captured. Oh, but this evening can be a holy night. It's cozy on a fireplace and dim those Christmas lights. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that you will need this Christmas. I won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. I'm here, I'm yours for the taking. You call it the season of giving. I'm here, I'm yours. Just fall in love with me this Christmas. Nothing else that we will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. 'Cause I don't want to be alone tonight. I wear like Christmas sweater, walk proudly to the mistletoe tonight. I want something to last forever. Last forever. So kiss me on this cold December night. Mm-hmm. Call it season of giving. I'm here, yours for the taking. Call it season of giving. I'm here, I'm yours. Ed eccoci di nuovo in studio e diamo la parola alla nostra ospite. Allora, io volevo concludere questa magica serata di Natale passata qui in radio insieme a Gesuina e D'Antonio, un Natale insolito perché di solito non si passa in radio, con Controcanto di Natale dedicata ai nostri alpini e a tutti gli alpini. Bene. Visto che ci sarà la grande sfilata a breve ormai. Sì. E voglio con questi miei ultimi versi ricordare a tutti gli radioascoltatori che Natale deve essere ogni giorno dell'anno. Eh sì. Con il nostro ascoltare, donare. E donare sempre possibilmente. Brava Jessy. Controcanto di Natale. Questa poesia l'ho scritta proprio per il Natale dell'anno scorso. C'era qualche incongruenza e gli alpini per Natale si sono riuniti tutti in fratellanza. E questo mi è sembrato talmente bello che sono nati questi versi. Crea melodia in questo Natale la voce degli alpini riuniti nel Tempio dell'Alleanza in un univoco canto di fratellanza. Superata la frammentazione, hanno ritrovato la storica unione, filo verde tessuto nel tempo a vestire lo spirito di lealtà. Ora insieme andranno, cammineranno, sfileranno, donando un visibile messaggio in questa logica ribaltata della loro profonda umanità. Quella di ieri, quella di sempre. Addio passato, oggi è Natale. Bella. Molto bene. Bella, sì. Bella, bella. Sono belle riflessioni, belle. Ma io mi chiedo, come fai così a far parlare tutte queste fiori, a far parlare gli animali, a fare... Perché lo fai con una naturalezza talmente così bella che io resto incantata. Che, non so, ad esempio fai parlare... perfino una pietra fai parlare. Non è semplice, vero? Cesi, non so, a volte mi meraviglio, ma per me è talmente naturale tutto questo che... Sì, perché finché fai parlare un animale, qualcosa, ma far parlare una margherita, far parlare un fiore, far parlare una pietra, non è semplice. Come... Io mi sento un tutt'uno in questo universo e perciò anche un sasso, anche una pietra, anche una margheritina, qualsiasi cosa, fa parte di questo unico. È un miracolo della natura, è il miracolo della vita, è il miracolo... di ogni Natale che dovremmo ricordare tutti quanti, Jessy. Volevo chiederti, adesso hai prospettive così di scrivere qualcos'altro? Sì, io ho già un libro pronto e questa volta vorrei proprio donarlo all'associazione Roby. Ogni mio lavoro ha uno scopo benefico diverso, però sto riprendendo in modo da ridare ad ogni associazione con la quale ho collaborato, sì, in passato, sì, ridare un'aria nuova, il mio amore rinnovato, ecco, diciamo così. Sì, quindi tu stai scrivendo... Ho già scritto La danza di una goccia d'acqua e è già nella casa editrice, aspettiamo il miracolo di Gesù Bambino e vediamo se andrà pubblicata oppure no. Ma sono poesie o è un romanzo? No, è una storia, una favola. Ah, bella, bella, bella, bella, bella. So che ami le favole, sì, Jessy. Sì, sì, sì, sì, io ho ancora il cuore bambino. Ecco, siamo accomunate in tutto questo. Sì. E penso che sia una bella cosa perché con le brutture che ci sono qui nel mondo, se non ci fosse la possibilità di sognare, di tornare ai tempi dell'infanzia. E noi abbiamo ancora qualche minuto e direi di continuare con almeno un estratto, una parte, un inizio di un'altra favola che poi lasceremo alla fantasia dei nostri ascoltatori completare. Sì. Dopo saranno curiosi, Antonio. La storia di Ambra. Ed è proprio questa. Jessy ama sentire le mie storie. Perfetto. E Ambra è proprio l'ambra, la pietra sì, preziosa, perché fanno, ormai è preziosa. Fanno le collane, no? Ma sì, certo. Mamma mia che stanchezza. Ma grazie a Dio sono arrivata. È stato un viaggio veramente lungo e affaticoso, rinchiusa dentro un sacchetto di pannolenci, premuta come una sardina in scatola insieme alle mie sorelle. Mi mancava l'aria. Abituata come sono stata fin dalla nascita a respirare l'aria fine del bosco. Ma ora vi racconto con ordine la mia storia. Mi chiamo Ambra, sono vecchia, anche se non dimostro la mia vera età con l'aspetto brillante e la trasparenza che mi contraddistinguono. La specie a cui appartengo è nata milioni di anni fa dalle piante preistoriche. Una resina vegetale, solidificata in epoche lontane e poi fossilizzata, che con il passare del tempo è diventata simile a un minerale. Io e le mie simili viviamo soprattutto in Romania, in Polonia, in Birmania e sulle rive del Mar Baltico. In Italia esistiamo solo in poche località, come nella provincia di Bologna, di Reggio Calabria e di Enna. Sono partita dalla Romania, stipata dentro una valigia, per intraprendere un lungo viaggio in automobile verso l'Italia, insieme a un grosso mercante di pietre dure. Ora posso finalmente respirare a fondo per riprendermi dallo stress. E intanto mi guardo attorno sul tavolo ricoperto da un pesante tappeto bianco. Osservo le mie parenti e altri minerali che non ho mai avuto il piacere di incontrare. Siamo tante, diverse per colore e per forma, di svariate misure. Chissà, mi chiedo, se diventeremo amiche e come sarà il mio futuro? Ho paura perché mi sento scrutata da un grande occhio che sento chiamare lente di ingrandimento. Mi sento soppesare da una mano, poi da un'altra e un'altra ancora. E alla fine mi trovo sopra un bilancino di precisione per essere pesata al millesimo. Mi fanno un sacco di complimenti. Sono originale, mi dicono. Sono bella e fuori misura. Il mio destino è quasi segnato. Finirò nella gioielleria più chic della capitale. Occhi esperti mi vedono già come un prodotto finito. E questo mi dà molto fastidio. Non capiscono che anch'io ho un'anima. Forse questi signori tutti vestiti di scuro scordano che grazie alle ambre come me si sono potuti studiare certi insetti preistorici. E poi, proprio strofinandoci, vennero scoperti i primi fenomeni elettrici artificiali che hanno dato origine al nome greco dell'ambra, electron. Le persone che mi stanno attorno mi attribuiscono un valore in denaro. Mi sento male, la testa mi gira in un turbinio fin quasi a svenire. E, turbata come sono, finisco senza rendermene conto in un laboratorio, sopra un piano di lavoro pieno di strani attrezzi, che sembra una sala operatoria. Un uomo con una mascherina sulla bocca e un paio di occhialoni scuri inizia subito a torturarmi. Con una punta disegna non so bene quale figura sulla mia pelle. Sento uno strano solletico. Vorrei protestare, ma non oso. Poi prende un taglierino dalla punta sottile. E che dolore! Mi sta incidendo dalla testa ai piedi. Ecco, così lasciamo indeterminato il finale, naturalmente, anche perché non ne abbiamo il tempo, e andiamo all'ultimo brano musicale, che è All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come. All I want for Eccoci di nuovo in studio e ormai siamo arrivati all'ultima tranche, o agli ultimi minuti, diciamo. Gli ultimi, no? Minuti, sì. Esatto. Il tempo di farci gli auguri, ancora, esatto, di rinnovarci gli auguri. Certamente. Ecco. Qualche ultima considerazione così sul futuro della poesia e delle favole, ecco, magari molto così velocemente. Sì, io credo veramente che il mondo, soprattutto adesso, i bambini che smanettano tutto il giorno coi telefonini, si innamorino nuovamente e delle favole e delle poesie. Sì, ma delle favole anche tanto, perché una volta quando eravamo bambini noi le favole erano una cosa, era veramente il pane. Io da brava nonna, quando il mio nipotino Tommaso mi viene a trovare, apro un libro e così insieme guardiamo, leggiamo e commentiamo la favola prescelta. È il regalo più grande che tu possa fare. Sì. Non ci resta altro che naturalmente ringraziamo ringraziare l'ospite, la certo, nostra ospite. E volevo fare una brevissima considerazione. Qualche giorno fa Papa Francesco ha fatto così un auspicio, chiamando per i 30 anni di Uno Mattina. Ha detto sia un Natale cristiano e non mondano. Vorrei così collegarmi a questo e dire che sia una vita cristiana e non mondana quella che noi dovremmo condurre e dovremmo tenere per il futuro. Chissà che Papa Francesco abbia così iniziato a dire queste cose che noi recepiremo. Bene, allora ringraziamo l'ospite, la poetessa Renata Alberti. Grazie di essere con noi. Rinnoviamo gli auguri di Buon Natale. Ringraziamo tutti per il supporto e per l'amore, diciamo, mediatico che hanno avuto per noi. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.